Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Ci risiamo. Parliamo ancora di mafia e ancora di Piemonte. Lo facciamo con una premessa che faccio mia del magistrato Pier Giorgio Morosini. Parlare di infiltrazioni mafiose, ha detto il magistrato Morosini nel corso dell'incontro Il futuro sul filo della memoria all'Istituto Tecnico Duca Abruzzi di Palermo, è un'espressione razzista di un modo sbagliato di fare informazione, perché sembra che il Nord abbia un primato morale, che tutto ciò che viene dal Sud contamina. Invece abbiamo una serie di processi che dimostra come siano proprio gli imprenditori del Nord a chiedere la mafia per avere prestazioni economiche che costano meno. Tenete conto che Morosini è un magistrato del Nord che lavora a Palermo. Andiamo avanti e parliamo di mafia e Piemonte. Perché? Perché alcuni giorni fa è stato sciolto proprio per mafia il comune di Rivarolo Canavese. È la seconda volta in un breve arco di tempo che la provincia di Torino subisce il commissariamento di un ente locale, dopo che neppure due mesi fa era toccato all'ENI la porta del Canavese. Per il Piemonte si tratta di una conseguenza, verrebbe da dire quasi naturale, dell'operazione Minotauro, che ha rivelato lo scorso giugno la presenza di 9 locali di 'ndrangheta attivi in provincia di Torino e che vede ora processo 172 imputati di legami con la 'ndrangheta. Quell'operazione rimase famosa anche per un incontro tenuto il 27 maggio 2009 in un bar di Via Veglia a Torino, di proprietà di Giuseppe Catalano, 70 anni, ritenuto dagli inquirenti il capo della locale di Siderno, sì, ma a Torino, morto suicida il 19 aprile dopo essersi gettato dal balcone dell'abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari. In quel bar erano presenti, oltre a Catalano, i boss al centro dei rapporti tra mafia e politica ai piedi delle Alpi. Su tutti, secondo quanto emerge dall'ordinanza Minotauro, sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla affiliazione all'organizzazione criminale.